Shh, lascia stare. Non fa niente. Non è successo niente. Cresciamo ripetendo queste parole come un mantra, fino a crederci. E quando ci facciamo l'abitudine, ci ripetiamo ossessivamente: no, non se ne parla. Ed è vero, non se ne parla abbastanza e abbastanza bene degli abusi sessuali nei confronti dei minori. Così, questo podcast si origina da quell'espressione che abita le nostre teste per anni, fino a quando assumiamo una consapevolezza sulla nostra condizione. In Italia siamo assai reticenti a parlare di abusi sull'infanzia, perché quando non ci manca il fiato, ci mancano le parole. Questa serie vuole aprire uno spazio di confronto che decostruisce l'immaginario fatto di soli stigmi, per riabilitare i vissuti delle persone abusate in età infantile, a cominciare dal lessico e dalle forme di narrazione. Su questo sentiero incontreremo le testimonianze di chi compie una marcia simile alla nostra, da più tempo, per prendere in consegna il testimone e passarlo laddove ancora non se ne parla. Noi siamo Francesca Svanera e Gabriele Rosato e questo è un podcast di Meti. Benvenute, benvenuti e benvenuto a Non se ne parla, il podcast che alza il volume delle storie silenziate. Noi siamo Gabriele Rosato e Francesca Svanera. In questa puntata, Gabri, c'è una sorpresa, mi sembra, come ospite. Cosa si fa? Raccontami un po'. Questa puntata, Franci, va un po' scartata come se fosse un pacco regalo. Sicuramente lo è per noi che lo registriamo da quasi 30 puntate e spero che lo sia anche per chi ci ascolta, perché in questo episodio intervistiamo un po' la persona alla quale dobbiamo l'incipit di questo podcast, ma soprattutto l'incipit di questa associazione. Oggi intervistiamo qui con noi a Non se ne parla Laura Monticelli, che è la presidente di Meti e dal 2013 è colei che ha messo la prima pietra miliare di questa associazione. Tante premesse, ma Laura, benvenuta. Grazie, grazie mille per questo invito, auto invito. Grazie davvero di essere qua con noi e penso che non ci sia da spiegarti qual è la prima domanda che faremo, perché è quella di rito, ma la ripetiamo magari per chi ci ascolta per la prima volta. Qual è secondo te la parola che viene meno detta o detta male o non detta che invece avrebbe bisogno di spazio? Allora, su questa domanda mi sono preparata. La parola che mi viene in mente e con la quale mi incontro e mi ci scontro è consapevolezza. Credo che venga usata troppo e in modo non adeguato sicuramente nella società di oggi, in questi momenti che stiamo vivendo in modo particolare, perché tutti, mi viene da dire, tutti e tutti credono di sapere qualcosa, ma ne sono realmente consapevoli? Ci lasci con una domanda e quindi adesso rilanciamone un'altra. Beh, intanto ci farà piacere sapere a me, Francesca, che registriamo da oltre 2 anni questo podcast, che sicuramente se esiste un'ascoltatrice fedele lo sei. Cioè, se volessimo mettere in qualche modo qualcuno che ci segue da così tanto tempo, ecco, per fortuna tu sei tra quelle persone, ma non soltanto perché naturalmente sei la presidente di Meti, ma perché sappiamo il valore che dall'inizio metti anche come ipoteca su questo podcast. Non se ne parla è una delle diverse emanazioni di Meti e tutto sommato con molta probabilità chi ci ascolta sa già che cos'è Meti, ma come diceva Francesca, se qualcuno o qualcuna ci arriva proprio attraverso questo episodio, oltre a sapere di averne una qualche decina prima da poterne ascoltare ancora, si potrà chiedere che cos'è Meti. Vorrei domandarti com'è nata questa idea e se puoi raccontarci anche le emozioni che ricordi e che se magari provi ancora oggi da allora, da quel battesimo un po' forse anche di fuoco quando nel 2013 hai dato vita all'associazione Meti. Allora, diciamo che la storia inizia prima del 2013 inizia per l'esattezza nel 2010, quando io pubblico il mio libro e inizio a fare delle presentazioni in giro un po' per, come dire, per il nord Italia soprattutto. È un libro autobiografico dove racconto la mia storia e le persone che venivano ad ascoltare questa storia tendenzialmente si avvicinavano per raccontare a loro volta la loro di storia, e quindi nasceva un canale tra me e queste persone che andava oltre la presentazione del libro e arrivava per tanto tempo, è arrivata la richiesta di trovare degli spazi dove poter parlare di questo argomento che non fosse lo studio del proprio psicologo. Un bisogno che probabilmente sentivo anch'io in quei momenti quando le persone si avvicinavano e parlavano. E io tornavo a casa, facevo le mie ricerche su internet, ma non si trovava niente. In Italia non c'erano spazi dedicati a persone adulte che avessero subito nell'infanzia, quindi parliamo di 10, 20, 60 anni prima, un abuso sessuale o dei maltrattamenti. E quindi dopo 2 anni un pochino disperata, mi viene da dire, ho deciso di fondare questa associazione. Ho preso marito, famiglia, amici, siamo andati dal notaio e abbiamo dato il via a questa associazione dal nome Meti, appunto. Ci piaceva l'idea di andare a pescare un po' nei miti greci e è partita nel 2013 con tantissima fatica, perché il passo successivo all'atto costitutivo è stato quello di depositare lo statuto all'Agenzia delle Entrate. È stata un'avventura, perché la mia referente all'Agenzia delle Entrate, la nostra referente all'Agenzia delle Entrate, che doveva appunto registrare lo statuto, mi chiamava perché non capiva che bisogno c'era di fondare un'associazione così. E questo dialogo è andato avanti per diverse telefonate, finché alla fine o mi arrendevo io o si arrendeva lei, e alla fine siamo riusciti a, come dire, mettere giù uno statuto che prevedesse alcune cose nuove sicuramente, ma di cui ce n'era bisogno. Quindi se mi torna alla mente l'emozione più forte nel 2013 è stata proprio questi credo almeno 6-7 mesi di lotta con l'Agenzia delle Entrate per far sì che questo statuto, questo benedetto statuto, venisse registrato. E poi nel 2015, quando è partito il primo gruppo di auto mutuo aiuto in presenza a Milano, forse quella è stata l'altra emozione in modo positivo o piuttosto forte, insomma, ecco, dar vita e toccare con mano veramente la realtà di uno spazio autocostruito, autogestito dal basso, è stata veramente un'emozione molto molto molto forte, piacevole, finalmente. Sono colpita perché questo pezzo di storia, vedere questo dietro le quinte, non lo sapevo neanch'io, quindi sono colpitissima per il fatto che è stata una lotta fin dall'inizio, no? È stato uno scontro fin dall'inizio per poter far comprendere a chi non capisce, a chi è al di fuori della bolla, che io tanto la nomino, la nominiamo spessissimo, no? Questa bolla dove ci sono esperti, dove ci siano noi survivor, dove ci sono tutte le persone che hanno i mezzi e sanno come si muove questo tipo di trauma. Ma al di fuori della bolla, questo che hai appena raccontato, ok che è successo tanti anni fa, però penso che potrebbe tranquillamente succedere anche oggi, ancora non fa fatica a esplodere, fa fatica a essere visto, perché è sempre come tipo di trauma è sempre molto invisibilizzato. Penso a un aneddoto che è successo a me da poco, che ero all'ospedale, no? E non so se ve l'ho raccontata, ma penso di sì. La raccontiamo a chi non la sa. Ero all'ospedale e dovevano fasciarmi perché mi ero rotta il braccio. Io chiedo gentilmente di chiudere la porta perché mi sentivo molto a disagio, dovermi spogliare nuda. Quindi l'infermiera mi guarda e mi chiede: vabbè, ma che fastidio hai? Io prendo tutto il mio coraggio e dico: no, guardi, ho avuto un abuso in infanzia da piccola. E questa mi guarda e dice: e non ti è ancora passata? E ora ci rido, faccio la battuta e tutto quello che vogliamo, però è proprio un chiaro segnale, sia questa signora dell'Agenzia delle Entrate, sia questa operatrice sanitaria, che non hanno la comprensione del cambiamento reale che avviene dopo un abuso sessuale in infanzia. Quindi mi viene da domandarti, perché sai, non conosco Meti, non ho idea di che cosa fate. Mi fa molto sorridere il fatto che ci stiamo intervistando tra di noi, perché vedo delle facce che vedo nel quotidiano, sono facce di persone a cui voglio bene, e mi viene da scherzare più che da intervistare, no? E spero che questo comunque arrivi anche a chi ci ascolta, perché dietro tutto il lavoro che fa Meti c'è una rete di sostegno di persone che si appoggiano l'un l'altra e si sostengono per poter convivere sia col proprio trauma e portare la propria voce al di fuori della bolla, che è oggi un'impresa ardua. Quindi, dopo tutta questa girata di discorsi, quello che volevo chiederti è, perché non lo so, quindi ti prego illuminami, cosa fa Meti? Allora, vediamo se mi ricordo tutto quello che fa Meti. Ma nel caso, voi che non conoscete Meti, mi aiuterete, immagino. Ok. Sì, abbiamo spiato un po'. Scusa Laura, abbiamo spiato sul sito, qualcosa sappiamo. Ah, bravissimi, vi siete informati prima di intervistarmi. Allora, io partirei dal cuore dell'associazione, che sono i gruppi di auto mutuo aiuto. I gruppi di auto mutuo aiuto sono un insieme di persone che si riuniscono e si ritrovano per parlare e confrontarsi sullo stesso problema che stanno vivendo adesso, o su un problema come nel nostro caso vissuto tanti anni fa, ma che ancora, come dire, porta delle conseguenze. Ci si incontra ogni 15 giorni, si condividono appunto situazioni o esperienze, e il confronto con l'altro ci permette di acquisire nuovi strumenti, nuove consapevolezze, per tornare alla domanda iniziale, nuove consapevolezze su quello che ci è successo e su quello che ancora adesso viviamo per colpa di quell'antico trauma. Noi siamo partiti nel 2015 appunto con un gruppo di auto mutuo aiuto in presenza a Milano. Nel 2017 ne abbiamo aperto uno in presenza a Brescia. Ora siamo a 16 gruppi online, perché con la pandemia poi ci siamo buttati un po' sull'online, e lì c'è stato, come dire, un po' l'esplosione di questo bisogno e di questa possibilità, anche mi viene da dire. E quindi, dicevo, siamo a 16 gruppi online, un gruppo in presenza a Milano e due gruppi di auto mutuo aiuto per genitori con figli e figlie adulte e adulti che a un certo punto della loro vita svelano questa esperienza traumatica ai propri genitori. Abbiamo capito che è una esperienza traumatica anche per il genitore stesso sapere cosa è successo al proprio figlio e non essere stato in grado di proteggerlo e di aiutarlo. E quindi abbiamo capito a un certo punto che uno spazio poteva essere utile anche ai genitori. Abbiamo l'assistenza, forniamo assistenza legale a chi a distanza di tanti anni vuole e prova a denunciare. Qui tocchiamo un tasto dolorosissimo. Poi facciamo formazione, tanta informazione, andiamo nelle scuole. Ma banalmente il podcast, mi sembra che se non lo nominiamo non esista, no? E quindi nominiamolo. E la mostra Riscatti, la mostra fotografica Riscatti e il nostro profilo Instagram. E se io penso un po' alla mia storia con Meti e guardo indietro in questi oramai più di 10 anni, vedo lo sviluppo, la crescita che ha fatto e mi sento molto orgogliosa, lo posso dire, molto orgogliosa, sì. L'orgoglio, che è un po' una di quelle sensazioni che può essere mista a molte altre emozioni, è alla base, ecco, di diversi dei colloqui che ho avuto all'interno dei gruppi di Emauto Mutuo Aiuto. Prima di arrivare, anzi di tornare su questa esperienza, perché, come tu dicevi nel tuo intervento, è un po' il cuore dell'attività di Meti. Lo è anche per un motivo, perché lo è dall'inizio dell'attività con le persone e lo è continua ad essere, quindi è un'esperienza ormai pluridecennale. Ma vorrei condividere con chi ci ascolta un caso reale di quanto l'Auto Mutuo Aiuto, l'esperienza di Meti, l'ascolto persino di trasmissioni radiofoniche, un po' come questa, anche se la nostra naturalmente è un po' più casereccia, però ecco, quanto tutti questi strumenti messi insieme possano essere la base per quell'orgoglio di cui parlavi. Ora noi parliamo qui con molte consapevolezze, come tu dicevi dall'inizio, Laura, perché sì, siamo affezionati all'associazione, ma perché abbiamo anche tratto molto dall'associazione. Francesca ed io conduciamo questo podcast dal 2022. Abbiamo cominciato a registrare nel 2022. Ecco, non la potete vedere, ma Francesca sta spalancando gli occhi come quando prima Laura ha detto che la tizia dell'Agenzia delle Entrate non condivideva troppo i motivi per cui Meti dovesse nascere. Ecco, il discorso qual è? È che siamo immersi in questa storia da parecchio tempo, al punto da sembrarci un po' immersi anche in una bolla, in cui a un certo punto queste cose ritornano a me. Certe volte capita anche di pensare: ma non è che quello che sto dicendo è pure scontato? E purtroppo, e sottolineo purtroppo, mi devo sempre ricredere che invece era necessario farlo, e laddove qualcuno o qualcuna fosse già edotta sull'argomento, comunque non è scontato ribadirlo. Perché lo sottolineo? Perché io sono arrivato a Meti, e mi piace raccontarlo, voi due già lo sapete dall'inizio evidentemente, ma chi ci ascolta magari no, io sono arrivato a Meti proprio attraverso un microfono. Cioè, io ricordo ancora quel mercoledì di maggio del 2021, in cui, mentre guidavo in auto, sento a un certo punto una voce che mi sembrava di fiducia. Io non so dire che cosa mi risuonasse esattamente, tuttora faccio fatica a trovare un solo elemento, perché il timbro, le parole, il lessico esattamente, mi risuonavano come una voce veramente familiare. Stavo ascoltando in quel pomeriggio alla trasmissione radiofonica Pinocchio di Radio DJ per la prima volta la testimonianza di Francesca. Io l'ho ascoltata poi dozzine e dozzine di volte la sua storia, ma quella prima volta mi sembrava già nota, già conosciuta. Io ricordo che parcheggiai il prima possibile la macchina perché avevo sentito che parlava di un'associazione che si chiamava forse Meti, ma io credevo fosse una sigla, quindi Mi sono messo lì a cercare su Google tutte le cose che si avvicinassero a Meti, immaginando che si riferisse alla ninfa. Bene, e fui folgorato dal momento in cui vidi che esisteva un'associazione che si occupava di questo. Ora, appunto, noi siamo in questa bolla, tu per prima, Laura, che l'hai pure costruita, l'hai messa insieme i pezzi, le molecole che fanno questa bolla. Però effettivamente per chi c'è fuori, magari anche per qualcuno o qualcuna che ci sta ascoltando, forse siamo anche l'unico contatto vero che può, con il quale interagire. Io poi subito dopo scrissi, mi rispondesti tu, Laura, non sapevo ancora chi eri, non sapevo ancora che la persona che avevo ascoltato alla radio sarebbe diventata, oltre che la prima facilitatrice del gruppo che ho frequentato, anche un'amica e poi qui coautrice di Non se ne parla e chissà quante altre cose sotto il dominio della legge potremo ancora fare, Francesca. E qui torno da te, Laura, perché l'automutuo aiuto è un'esperienza speciale, molto importante, ma più volte ci siamo dette fuori da questi microfoni una cosa, cioè che l'esperienza che possiamo offrire con Meti, anche attraverso per esempio questi microfoni, è che per molte persone che non hanno magari avuto la possibilità, alcune volte anche gli strumenti economici per affrontare un percorso di psicoterapia o magari dei pregiudizi in famiglia per parlare dell'abuso, ecco, spesso Meti è l'unica risorsa che arriva anche nelle periferie, dove magari una persona che non vive in una città grande non può accedere a dei servizi perché non è prossima a quella data risorsa. Ecco, quindi, Laura, che lavoro fa Meti proprio per queste persone in cui anche quella piccola testimonianza può fare differenza. Tu sai anche quante volte, pure nei gruppi di automutuo aiuto, qualcuno a qualcuna si collega dai posti più improbabili pur di esserci. Facciamo sapere questo dato, perché quando magari la gente pensa ai gruppi AMA, può avere l'idea di quei telefilm in cui tanta gente si raduna attorno a un cerchio e discutono più o meno allegramente dei problemi e basta. Invece, facciamo sapere che valore ha l'automutuo aiuto e anche che cosa lascia. Allora, prima di risponderti, Gabri, mi viene in mente che mentre mi avete chiesto cosa fa Meti, in verità tra le tante cose che ho detto ne ho dimenticate tante altre. Proprio perché siamo, come dire, sono tra virgolette quella che segue un po' tutto il lavoro di Meti. Evidentemente non posso far altro che perdere pezzi per strada. Per cui, aggiungendo all'elenco di prima, mi viene da dire l'arte terapia, le varie convenzioni che abbiamo in giro un po' per tutta Italia, sono, e qui arrivo a risponderti anche Gabriele, una piccola parte di quello che Meti può offrire a persone che sentono il bisogno di intraprendere un percorso individuale, ma che non hanno i mezzi in modo particolare, soprattutto non hanno i mezzi economici per poterlo fare. Quindi, con l'arte terapia offriamo attraverso i tirocini dei percorsi a titolo gratuito completamente, mentre invece, non so, con l'associazione EMDR Italia, con il Centro Ti Ama di Milano, e se andate sul sito trovate altre associazioni, offriamo delle convenzioni, degli sconti molto molto importanti, e questo è un piccolo pezzo. Dopodiché Meti fa sì che le persone non si sentano più sole. Questo credo che sia la cosa più importante, perché ascoltano una puntata dei podcast, perché ci seguono su Instagram, perché mandano una mail e ricevono una risposta. A me è capitato spesso di mandare una mail e di non ricevere risposte. Io su questa cosa sono molto, molto attenta e puntigliosa, perché è qualcosa che ho vissuto e che mi ha fatto soffrire molto. Mi ha fatto sentire molto sola a non ricevere risposta. E quindi io cerco il più possibile nei tempi che mi permettono di comunque rispondere a tutti e a tutte. Metti c'è, l'automutuo aiuto è una, come posso dire, è una modalità di autoaiuto vecchia negli anni, perché parliamo di inizi degli anni 60, quando si è sviluppato tanto l'automutuo aiuto. In Italia un po' meno, però pian piano sta prendendo piede ancora adesso, è sicuramente uno spazio utile di confronto e di supporto, diverso dalla psicoterapia, perché in questo caso a volte basta proprio guardarsi negli occhi con l'altra persona per capire con il cuore, avere consapevolezza, e torniamo un'altra volta alla parola iniziale, di quello che l'altro mi sta raccontando e di come io lo posso accoglierlo, posso accogliere questo racconto. È una modalità, mi viene da dire, molto specifica, che a volte, finché non la si prova, non si può solo immaginare i benefici che può dare. Stavo riflettendo su quello che stavi dicendo e penso che i gruppi di mutuo autoaiuto siano posti per tutti, ma allo stesso tempo non per tutti, nel senso che alcune persone arrivano e subito stanno bene, subito si sentono accolte, per altri l'incontro con l'altro diventa veramente una cosa troppo forte e insostenibile. Quindi la cosa bella anche che c'è all'interno di questi gruppi, oltre il non giudizio e oltre l'accoglienza, è proprio anche lasciare la libertà di decidere se continuare, se smettere, sempre però con quella visuale verso l'altro, verso l'insieme. E proprio pensando all'insieme, credo che una delle formule vincenti che io ho trovato e ha fatto bene a me e a Meti è la rete che si è creata con altre persone. Come diceva Gabri prima, siamo diventati amici, come anche con te Laura, cioè ormai rispetto all'inizio vivo proprio questo ambiente come casa mia. Non la vivo come un qualcosa che è lontano ed è fuori da me, è un qualcosa che mi appartiene, che ci sto bene, ma non mi sento costretta a rimanerci. E questa è la prima volta che capitava a me. Perché? Perché spessissimo nella vita, con il tipo di trauma che abbiamo subito noi, si rimane tante volte in posti solo ed esclusivamente perché non riusciamo a dir di no, perché ci sentiamo costretti a fare qualcosa. E invece secondo me qua c'è proprio la libertà, e anche la libertà di ascoltare i propri tempi e di lasciare andare, che non è semplice né per chi lo sta facendo e né per chi lo sta ricevendo. Io per esempio una cosa che ho imparato qua, che la porto proprio come una cosa preziosa, è l'esposizione. Io sono stata proprio tra le primissime persone che ha scritto su Instagram, no? L'idea è nata da una follia collettiva, mi viene da dire, insieme a quanti eravamo, Laura, all'inizio 5, 6 credo. Quanti sono adesso? Adesso credo che siamo 16-17, sì. È di nuovo sgranato gli occhi per chi non mi vede. E quindi all'inizio eravamo proprio in 5-6, eravamo in pochissimi, partito con mille problemi perché nessuno di noi aveva mai fatto questa cosa, quindi non sapevamo anche il modo di comunicare all'altro. E io ho preso man mano talmente tanta sicurezza nell'espormi che ho deciso di concedermi uno spazio mio e raccontarmi all'interno del mio spazio, che per me voleva dire riappropriarmi della mia immagine, perché la mia immagine, essendo che era all'interno di una compravendita che è quella della pedopornografia, se prima, quando Gabriele parlava, che abbiamo iniziato a parlare qua, io ricordo i primi momenti quanto io tremavo, io scrivevo tutto. Se voi andate a sentire le prime puntate, ascoltatemi, io più o meno tutto dettato, tutto pronto, parola e virgola. Ora mi butto e non ho più paura di espormi perché so che sotto c'è una rete che è fatta di persone che ho incontrato meti, alcune se ne sono andate ma sono rimaste amiche, altre stanno arrivando e chissà dove andremo. E in tutto questo io credo che lo strumento che a me ha fatto tanto bene all'interno di questa casa sia proprio la rete. Però ti chiedo, quali sono oltre la rete degli altri strumenti, secondo tu un punto di vista, che possano far sentire una persona che ha avuto questo tipo di abusi bene, che la facciano più che bene, che è una parola troppo gigantesca, la riduco in che possano aiutarla a non sentirsi, come hai detto tu prima, più sola, e soprattutto che possano aiutarla a rimettere insieme tutti i pezzi che fanno parte di sé e del proprio trauma per riuscire a convivere con questo tipo di abuso alle spalle. Mi viene da dirti, di risponderti, Francesca, che è la sperimentazione. Oltre alla rete è sperimentarsi. Cosa vuol dire? No, io, come posso dire, non so bene che cosa succede o che cosa è necessario. Credo che fondamentale sia l'ascolto del proprio essere. E qui metti quello che viene detto più e più volte fin dall'inizio, fin dal primo colloquio, è quello che questo spazio, in questo spazio ci devi stare bene. Stare bene cosa vuol dire? Imparare a dire dei no. Diciamo che i gruppi di automutuo aiuto sono un po' come una palestra. Se tu riesci a dire no all'interno di un gruppo di automutuo aiuto, sperimenterai che potrai dirlo anche fuori. Con tutte le difficoltà che poi incontrerai sicuramente, con risposte positive o negative, ma avrai già fatto esperienza di cosa vuol dire no. E quell'esperienza positiva vissuta nel gruppo sicuramente ti rimarrà appiccicata, non è italiano perfetto, ma ti rimarrà addosso anche quando sarai fuori nella società. E ti consentirai di dire no, io questa cosa non la voglio fare, questa cosa non la voglio subire, questa cosa non mi piace. Questo è solo un esempio, ma ce ne sarebbero tantissimi altri. È proprio sperimentare quello che è buono per se stessi, in uno spazio sicuro e protetto, dove sai che l'incontro con l'altro può essere positivo. Sì, mentre ti sto ascoltando mi viene in mente quanto nei gruppi di mutuo aiuto noi continuiamo a ripetere la parola come stai, ascoltati, datti il tempo che ti serve, che sono parole che all'esterno abbiamo l'esatto opposto: corri, vai, produci, corri, spaccati in due, prestazioni. E invece qua c'è un continuo riportare a sé all'interno dei gruppi, quindi proprio vedo questa palestra, e per me lo è stata in tantissime cose, quindi ancora grazie, ecco, questo mi veniva da dire che non l'avevo ancora detto. Quindi c'è un'altra cosa, se posso aggiungere, il pezzettino per arrivare al gruppo, noi tendenzialmente faccio 3 colloqui con la persona che ci contatta. Un primo colloquio è il colloquio informativo, dove rispondo a tutte le domande, le richieste della persona, dove do indicazioni su quale sarà il percorso nel gruppo, di cosa sono i gruppi di automutuo aiuto, e poi facciamo 2 incontri tendenzialmente, o a seconda del bisogno della persona 3, non di più, di sperimentazione del gruppo, proprio per farla capire alla persona se dentro il gruppo, se questo spazio può essere uno spazio adatto a lei. Questo ci consente anche di fare le cose un po' con calma. Abbiamo capito che prendere la persona e buttarla nel secchio dell'acqua ghiacciata non funziona. Spaventa più che aiutare. E quindi le cose si fanno in modo graduale, con i tempi della persona, con i tempi dell'associazione, ma soprattutto rispettando i tempi della persona, che è un essere a sé stante, non può avere i miei stessi tempi, le mie stesse idee, i miei stessi pensieri. Ecco, parlando di tempo e di tempi, mi accorgo che dobbiamo quasi avviarci alla conclusione rispetto a quello che è il tempo di ascolto che in qualche modo diamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. D'altra parte, trovo che sia anche rilevante far emergere questo discorso sul tempo che Meti si prende e offre. Intanto perché spesso parliamo di Meti in terza persona come se fosse un soggetto, quella ninfa della mitologia greca, ma in realtà Meti è fatta di persone. Devo dire sempre più persone, e questo è un dato che farei sottolineare, sottolineerei anche rispetto al fatto che è trasformativa l'esperienza di Meti. Laura sa bene quante persone attraverso Meti hanno percorso anche scelte determinanti, sia sul piano personale, professionale, direi anche collettivo. Meti però è anche una realtà in cui le persone che ci lavorano lo fanno da volontari. Questa cosa, rispetto ad altre esperienze di associazione che ho vissuto, devo dire che ha dato tanta validità alla solidarietà che può sorgere dall'esperienza dell'attivismo e dell'associazionismo. Vorrei credere che questo è il modo di fare associazionismo. Tu, Laura, sai benissimo tutto il tempo che dedichi, noi lo osserviamo perché ti conosciamo bene, però ecco, comprendo che dal di fuori questa cosa non si osservi, non si possa osservare. E invece è l'occasione propizia per dirti, a nome di tutta l'associazione, di chi ti conosce, di noi utenti, facilitatori, anche di questo grazie collettivo. E prima di arrivare alla domanda con la quale ci saluteremo, avrei una domanda per te, ma anche per Francesca. Direi di darci, se vi va, una risposta un po' a testa rispetto a questo. Se avete in mente un aneddoto, una esperienza che sentite significativa a condividere. Io ne ho già in mente più di una e quindi dovrò sceglierne una solamente, ma un aneddoto che faccia sapere alle persone che ci ascoltano che non sono parte di Meti, ma anche quelle che ne fanno parte, ma naturalmente vivono principalmente il proprio gruppo di automutuo aiuto, ecco, qualcosa che in qualche modo vi assegnate e positivamente magari, ma che vi assegnate e che continua a essere un po' un faro anche in quelle giornate in cui, Laura, ti capita mai di pensare, beh, adesso chiudo tutto? Eh sì, hai ragione, Gabriele. Sì, purtroppo sì, ci sono quelle giornate in cui succede magari qualcosa e il pensiero va, ma chi me l'ha fatto fare? Ma perché? Ma io potevo aprire un'associazione di giardinaggio, di decoupage, non lo so, qualsiasi cosa. E questo è un pensiero che ogni tanto arriva, un po' perché magari sono semplicemente stanca, perché come dicevi tu, io dedico veramente tante ore all'associazione, ma proprio tante energie, non solo le ore, ma io tutto il giorno penso all'associazione, perché ci sono problemi da risolvere, perché succedono cose con le quali ti devi scontrare, perché devi seguire documenti, fare documentazione sulle quali io sono negatissima. Però ci provo e quindi ci vuole impegno, ma anche pensare alle cose belle a volte costa energia, no? Anche se poi ne ricavi tanta altra, no? Però ci sono alcuni episodi vissuti più come direttivo dell'associazione Meti che rimangono impressi nella mia mente molto faticosi. Ho dovuto prendere delle decisioni molto dure e molto dure, molto difficili, molto rigide a volte per salvaguardare meti, per salvaguardare le persone che frequentano i gruppi di automutuo aiuto, e quelle esperienze negative resteranno sicuramente nella mia testa, nel mio corpo, nel mio cuore, come esperienze dolorosissime ma anche di costruzione, perché proprio attraverso quelle esperienze ho fatto meti più forte, secondo me, più forte e più consapevole anche, per tornare alla parola iniziale. Per me invece, se devo pensare a non trasformare meti in un'associazione di decoupage, penso a un paio di eventi, uno lo porterò penso nel cuore per sempre. Quando una persona che era nei miei gruppi di mutuo aiuto in presenza, che non aveva piacere a toccare le altre persone, dopo un evento che era accaduto e tante parole, si è girata di slancio, mi ha abbracciato. Per me rimarrà quel momento dove ho percepito che lì ho percepito la rete, lì ho proprio sentito tutta la comunità e la collettività che poteva nascere. E lì, quando proprio magari sono stanca di fare tante cose, sia all'interno di Meti che anche privatamente, penso tanto a quell'istante, no? Perché è stato breve, ma avevo la pelle d'oca ovunque, ho pianto tantissimo. Un altro momento per me molto positivo è stata l'apertura del gruppo online. Secondo me erano in un periodo bruttissimo, perché eravamo in pieno Covid, ci stavamo proprio chiedendo se mai avremmo ripreso i gruppi, se mai li avremmo riavuti, e credo che né io né Laura in quel momento avessimo idea di che cosa potevano diventare, cioè del potenziale che potevano metterci in comunicazione sinergica con tutta l'Italia e anche l'estero. Cioè, proprio questa era l'ultima delle idee. La nostra idea iniziale era: ma sì, siamo a casa da soli, almeno qua ci connettiamo. E ricordo ancora il volantino che avevamo fatto io e te, Laura, sposta la foglia, metti la foglia, giro di qui, perché manco avevamo mai usato Canva tutte e due. E penso adesso e a tutto il cambiamento, la rivoluzione che c'è stata, e non è stata una rivoluzione nella mia vita solitaria, è stata una rivoluzione collettiva. Io credo che tante volte mi chiedono come si fa a uscire da questo tipo di trauma. Io rispondo sempre: non si esce da questo tipo di trauma, si impara a conviverci, si impara a farlo diventare parte di te senza che sanguini in continuazione. E quello che dico, io sono stata fortunata, io sono stata privilegiata, io ho incontrato altre persone che come me hanno intrapreso la mia strada, e mi rendo conto che questo è davvero un privilegio, incontrare e condividere il proprio percorso e sostenersi a vicenda quando uno fa più fatica, perché magari fa fatica perché è in riattivazione, oppure quando una persona ti guarda e ti dice: sai che sei in piena riattivazione e tu non te ne accorto, però queste parole ti riportano all'interno di quello che tu sei e ti permettono di fare, come ha detto Laura prima, tanti passi al sicuro in un posto sicuro, e poi fare gli stessi passi senza girello fuori da questa scatola, come spesso la chiamiamo, casa. Scatola, casa e persino condominio, perché in effetti questo grande complesso, man mano che cresce, cresce in altezza ma anche in ampiezza, in estensione. Vi ringrazio per avermi condiviso e per averci condiviso questi aneddoti, perché secondo me arricchiscono molto l'esperienza umana nella quale anche qualcun altro si ritrova. Ed è per questo che quello che io vi affido è un po' la continuità di quel ricordo che avevo già aperto qualche minuto fa, quando vi dicevo che ho scoperto per la prima volta Meti. Io ho piacere, e lo faccio per la prima volta dopo anni, quindi per me è anche un po' un'emozione rileggere queste parole, rileggo un estratto del messaggio che io ho inviato a Meti la prima volta, perché secondo me diverse persone si possono ritrovare in questo in queste parole, non tanto per il lessico ovviamente, quanto per la prudenza, perché poi l'esperienza mi avrebbe detto che quasi tutte e tutti la prima cosa che sentono di dover verificare se sono adatte al gruppo, ma non perché temono un confronto con un gruppo di persone, perché si chiedono se la propria esperienza è valida. Rileggendo queste parole che adesso vi riporto, mi sono sentito un po' svuotato perché, pure per il fatto che lo studio del trauma rappresenta anche il mio ambito di studi, mi fa ironia pensare che non riuscissi a riconoscerlo in me stesso. Io scrivevo queste parole il 4 maggio 2021, quindi ironicamente poco meno di 4 anni fa. Dicevo questo a un certo punto. Non so se mi posso configurare come survivor, giacché sono sopravvissuto ma non ho mai denunciato. Temo che come me si ritrovino la maggior parte delle persone che hanno ascoltato l'intervista. Mi riferivo a quella di Francesca. Se in qualche modo posso apportare un contributo alle attività o c'è occasione di unirsi ai dibattiti, sono disposto a collaborare nelle forme che riterrete più opportune. Io ricordo proprio questo, che la mia prima mossa non fu chiedere aiuto, perché nessuno mi aveva detto che era valido chiedere aiuto per un'esperienza così lontana nel tempo. La prima cosa che avevo sentito di urgenza era: io sento simile quella storia che ho sentito, quella voce mi sembra familiare, non è che posso fare qualcosa? Poi avrei scoperto che questa sensazione la provano tante delle persone che entrano in questa associazione e che poi in fondo fanno parte di un'attività di volontariato e attivismo. Laura, che non conoscevo ancora esattamente, mi accompagnò da subito a riconoscere che il mio primo bisogno latente, ma che io stavo censurando, era quello di chiedere legittimamente: anche io ho bisogno di aiuto. Sì, anche la mia esperienza è di un survivor. Anche la mia esperienza di vittima, se così mi identificavo in quel momento, può avere una riconfigurazione. Posso cominciare a sopravvivere. Quindi questo è il mio aneddoto perché evidentemente mi riguarda proprio da vicino, però posso confermare che non più tardi di un mese dopo avevo cominciato a fare automutuo aiuto e di lì a qualche mese avremmo sentito assieme a Laura, Francesca ed io l'urgenza di mettere su un podcast. Va detto che all'inizio eravamo anche più persone intorno a questo progetto ed è bello far sapere che come ogni cosa ci sono una serie di percorsi prima di arrivare all'accensione del microfono. Tu, Franci, prima dicevi che nei primi episodi avevi un altro approccio anche alla registrazione. Io ti dico che tuttora farei un sacco fatica ad ascoltarmi nelle prime puntate. È un esercizio che è di profondo rispecchiamento. Forse non sono nemmeno pronto ora mentre ve ne parlo, ma sono sicuro che tutte quelle cose che ci siamo detti in quei momenti non soltanto erano fatti del nostro presente di quel tempo, ma erano lettere che ci arrivavano dal futuro al nostro presente di quel momento. Quindi io trovo che nulla sia stato sprecato di anche quell'imbarazzo, di quel disagio, di quella paura di accendere un microfono e di registrarci davanti a una webcam, perché non siamo formate per essere dei podcaster e dei giornalisti da speaker radiofonici. Quindi tutto questo ce lo ha dato esattamente l'esperienza in Medi. Sì, e aggiungo anche che soprattutto abbiamo intervistato persone che magari, io parlo per me, non avevo il poster perché non ho più l'età dei poster, però probabilmente se avessi potuto averli avrei avuto la camera tappezzata dei poster delle persone che abbiamo intervistato, quindi c'era anche tantissima emozione del fatto che davanti avevamo delle persone che, non so, avevo letto tutti i libri, quello che sapevo del trauma l'avevo recepito tramite loro, oppure semplicemente li seguivo su Instagram, quindi è stato tutto questo percorso una crescita, un'emozione unica, una bella montagna russa, secondo me. E la cosa bella che voi che state ascoltando lo sapete, dietro le quinte c'era Laura, comunque, che noi gli proponevamo delle cose folli e al posto ogni tanto ci fermava. Però era sempre un sì, no? Era sì, dai, bello, bello, sì, dai. E anche questo entusiasmo poi ti dà la carica per dire ok, ci provo. Abbiamo provato a contattare persone convinti che non ci guardavano nemmeno e invece ci hanno risposto, sono venuti e hanno partecipato con tutto il loro bagaglio, portando proprio loro stessi. Molti di loro sono diventati, alcuni di loro sono diventati i nostri alleati e tuttora ci sostengono. Quindi questo podcast per me è stato un qualcosa che ci ha portato, come hai detto te, in un futuro e continua a portarci in quella direzione di un futuro. E il tutto è partito da un libro nel 2010. Questo libro si intitola La bambina che beveva cioccolata. Adesso io lo mostro come se fossimo davanti a una, davvero una videocamera, però è evidentemente qualcosa che è stato più che generativo. Quindi grazie Laura per aver avuto da allora quella forza di prenderti la tua fetta di responsabilità. Ora, arrivando alla conclusione di questa puntata così importante e anche così divertente, mi sento dire, cioè io mi sono commosso, vedo i nostri visi un po' che dobbiamo asciugarci quasi le lacrime, ma Laura, anche te Franci, una parola che vi portate di questa esperienza, di questa condivisione? C'era anche mancato fare forse questo un po' aggiornamento fra noi tre, è come se ci fossimo detti le cose con un microfono acceso, tutto sommato, ecco, ma che parola vi portate? Mi vengono in mente tante parole, a dire la verità. Sceglierne una è un po' difficile. Più che una parola, mi viene in mente un'immagine, che è l'immagine del logo di Meti, che è la farfalla. Però dire la parola che voglio dire oggi è farfalla mi sembra un po' troppo banale. Però vi lascio con il logo di Meti, perché fin da subito l'idea di questa associazione, l'idea che alla base di questa associazione era che qui le persone potessero essere anche solo di passaggio, non per forza dovevano fermarsi, un passaggio dove sarebbero in qualche modo cresciute, ecco, forse la parola può essere crescita, dove sarebbero cresciute per poi spiccare il volo. E quindi vi lascio con queste tante parole, non una sola. Grazie mille, grazie di cuore. E voi non lo sapete, ma dovete sapere questo altro aneddoto che ora vi dico. Dovete sapere che Gabriele, tutte le volte che un ospite, o come in questo caso Laura, dice qualcosa, se lui ha nella sua, dietro di sé ha questa libreria bellissima con uno sfondo verde che è meravigliosa, lui se ha il libro che stiamo citando, se ha il volantino che stiamo dicendo, tira fuori, no? Io sono una persona che si distrae in 1, 2, 3, via. E tutte le volte io penso, aspetta, voglio vedere quello che ha fatto Gabri. Tipo adesso Laura stava dicendo una cosa molto toccante, molto sentita, lui tirava fuori il volantino di Meti col simbolo della farfalla e la mia testa diceva, oh che bella la farfalla disegnata sul volantino. Ecco, questo che avete appena sentito è Meti, cioè di serietà ce n'è tanta. C'è molta testa e professionalità, però c'è anche tanto lasciarsi andare e far volare queste farfalle. Vai Laura che alza la mano col dito come a scuola. Sarai obbligata a ascoltare la puntata del podcast, perché se ti sei distratta dovrai ascoltarla. Faccio ripetizioni podcast. La mia parola è futuro, perché pensando al passato e alla strada percorsa fino a qua, un po' mi chiedo dove andremo, no? Però ho imparato in questi ultimi anni a vivere il qui e l'ora. Quindi vivere questa intervista, viverla pieno, domani partire, fare altre esperienze e viverle a pieno. Perché la vita è fatta di momenti, a volte sono felici, però sono momenti, quindi iniziano e finiscono. La vita è fatta di momenti tristi e dolorosi che iniziano e finiscono. E comunque una curiosità di trovarci qua di nuovo a questi microfoni, se ce ne sarà l'opportunità tra 3 anni, raccontarci quello che c'è nel futuro, mi incuriosisce molto. Diciamo che ho questa prospettiva lanciata verso lo spiccare questi voli, no? E vedere dove e in che fiore portano. Quante immagini, e mi sento di sottolineare che tutte queste immagini che avete evocato sono essenziali. Sono sicuro che più di qualcuno, qualcuna si ritrovi in alcuni di questi tratti. Direi la puntata di oggi è stata essenziale, lo è stata per noi tre perché la desideravamo da molto, sono sicuro che lo è anche per chi ci ascolta da più tempo e soprattutto per chi Meti la vive e quindi ha un po' anche una sorta di risvolto. Io la conosco finalmente, la persona che hanno intervistato, perché diceva bene Francesca, abbiamo intervistato persone che rappresentano anche per noi dei punti di riferimento su come fare attivismo, su come farlo sul lungo termine, anche in altri ambiti dell'intersezionalità. E registrare questo podcast è per noi essenziale. Aver avuto questa idea parecchio peregrina dall'inizio, specialmente in una fase ancora un po' incipiente della mia, parlo di me come attività anche di proprio di attivismo, mi sembrava ancora troppo presto, ma è stato essenziale lanciarsi quando sembrava troppo presto. È stato essenziale fermare quella volta la macchina e cercare subito, prima che mi passasse dalla mente la parola Meti, cercarla su Google e scrivere quel messaggio. È stato essenziale raccogliere la sfida quando Laura a un certo punto mi ha proposto di cogliere anche il testimone della facilitazione nei gruppi AMA. È stato essenziale, indubbiamente, decidere tutti i giorni di far parte di Meti. Quindi la mia parola, indubbiamente, questa sera non può che essere essenziale. Essenziale era anche per noi la tua presenza, Laura, perché ovviamente ci viviamo molto. Lasciami anche dire, sono anche felice che domani ti vedo pure di persona, oltre che attraverso questo microfono, quando sarà uscita questa puntata ci saremo già visti, però sono veramente felice che tutto questo ce lo possiamo riconoscere con parole genuine, parole sane. E quindi con tutte queste parole io penso che alla fine dovremmo anche tirare fuori una bella antologia, anche perché la tua parola consapevolezza con la quale hai cominciato è emersa più volte in questo podcast e mi accorgo che ogni volta qualcuno, qualcuna ci ha dato un'angolatura, no? Una spigolatura su questa espressione che ancora non avevo esplorato. Quindi grazie per credere in noi, parlo di me Francesca, grazie per credere in noi come Meti. Io direi, come facciamo tutte le volte che ci salutiamo nei gruppi di autoaiuto, accendiamo i microfoni e salutiamoci come ci conviene. E chissà, magari anche per una quarta stagione. Non è così? Mi è piaciuto lo sguardo birichino finale e lo sguardo di Laura è molto, molto caloroso in questo momento. Quindi ciao a tutti. Ciao, grazie ancora. Ciao a tutti e a tutte. A presto. Non se ne parla è un podcast dell'Associazione Meti ed è prodotto da Officine B12 col supporto del Centro Medico Stendhal di Milano. Tutti gli episodi sono disponibili su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Seguici sulla tua app preferita e riceverai la notifica dell'uscita di ogni nuova puntata. E se il podcast è piaciuto, faccelo sapere e spargi la voce. Fa che se ne parli. A presto!